quel che vede intorno a sé. Vorrei capire quante cose vuole fare, studiare, innalzare l'ego per raggiungere un re. Ma quanta fama, vanità vuole che si spanda in terra, perché dicono di sé, dicono di sé. Abbiamo un saggio che ci guida, intelligente come sappiamo poco, ma c'è lui che dice tutto di sé. Nel nostro niente una cultura sembra dire perché, e poi pensiamo sottovoce, ma l'amore dov'è? Invece di parlare con l'amore fatto per me, portare verità nei poveri che Dio culla c'è. Ma che malizia nei tuoi occhi pure c'è, una luce pronta a esplodere per te, esplodere per te. Abbiamo un saggio che ci guida, intelligente come sappiamo poco, ma c'è lui che dice tutto di sé. Nel nostro niente una cultura sembra dire perché, e poi pensiamo sotto.